Salve a tutti, sono Luca Mariani, benvenuti in questo primo podcast. È una prova quella che sto facendo per vedere se c'è qualche interesse da parte vostra nell'ascoltare appunto questa serie di podcast che ho in progetto di fare, se appunto c'è la vostra partecipazione a questo podcast, ne seguiranno tanti altri sulle tematiche più svariate. Ma non perdiamoci in ciance, non perdiamoci appunto in conversazioni inutili e iniziamo a parlare dell'argomento di oggi, l'argomento che vuole inaugurare questo primo podcast, nella speranza che in qualche modo possa portare fortuna. Un argomento di estrema attualità e stiamo parlando appunto di Facebook, del social network per eccellenza, per antonomasia, che è al centro dell'attenzione già da diversi mesi per la vendita dei nostri dati, che effettivamente ha effettuato e sta effettuando tuttora vendita corposa di tutte le nostre abitudini, di tutte le nostre informazioni, che pedissequamente appunto ci rileva tramite diversi algoritmi nell'utilizzo della piattaforma e non solo, ma poi la vedremo successivamente in questo podcast, e nella vendita di questi dati a nostra insaputa a tutta una serie di aziende e quindi per un business prettamente economico e commerciale. Sto un po' improvvisando il discorso e cercherò di parlarvi nel modo più naturale possibile. E mi scuso anticipatamente se la qualità dell'audio non è ottimale, sono inesperto, questo è il mio primo podcast, ho un canale comunque YouTube, Luca Mariani Official, lì in quel canale YouTube potete trovare tanti video divisi in sezioni, dedicati a tante tematiche diverse. Tra una di queste sezioni appunto c'è una sezione dove si parla delle varie problematiche dell'Italia e non solo dell'Italia, dove appunto cerco di fare sempre il punto della situazione. Quello che voglio fare oggi sulla problematica di Facebook. Anticipatamente voglio anche evidenziare che a dicembre avevo fatto uscire un video sempre riguardante Facebook, in particolare sulla mia decisione di cancellare dal mio profilo tutte le liste degli amici, nonché tutti i miei dati come numero di cellulare, orientamenti politici, religiosi, eccetera, eccetera, in modo tale da limitare al minimo i danni che Facebook poteva fare nella vendita dei miei dati, perché negli ultimi mesi stavo ricevendo tantissime chiamate promozionali sul mio numero di cellulare, sulle mie mail, tutti quei dati effettivamente che avevo condiviso con Facebook. Quel video potete andarvelo a vedere sul mio canale YouTube, ovviamente corredato da video, mi potete vedere anche la mia faccia in questo caso. E ecco, quel video era scaturito poi il 7 dicembre dal fatto che l'antitrust italiana aveva multato Facebook per 10 milioni di euro appunto per la vendita illecita in qualche modo di questi nostri dati, informazioni personali alle aziende senza rendere edotto completamente chiaramente il cliente. Ma poi ci arriviamo. Ritorniamo a noi. Perché ancora Facebook? Perché nella rivista, nella copertina del Time, il Time mi sto riferendo al famoso magazine americano-statunitense, e di questa settimana, oggi è il 24 gennaio, quindi il Time di questa settimana è rubricato alla data gennaio 28, e dedica la sua copertina direttamente a Facebook, con una serie di scritte e un'immagine di una donna che sta portando via in qualche modo i due like, e faccio fatica a descriverla. Normalmente il Time dedica la sua copertina, almeno per chi un po' è avvezzo e un po' conosce il Time, dedica la copertina a personaggi famosi, ai busti o comunque alle facce di personaggi influenti, economici, politici, artisti, comunque della più svariata natura. Negli ultimi anni c'è un po' un cambio di rotta da parte di questo magazine, perché molte volte, sovente, come in questo caso, dedica la copertina ad argomenti d'attualità senza appunto immagini raffiguranti personaggi famosi. come nel nostro caso. Vi cerco, è proprio qui appunto che voglio far partire il mio podcast, vi cerco di leggere un attimo il titolo di questo time, perché da qui un po' riassume le problematiche che sta comportando Facebook, le problematiche che vorrei appunto parlarvi in questo podcast, problematiche abbastanza serie in una società come la nostra, una società di diritto e una società che dovrebbe essere quanto più democratica possibile. Democratica e trasparente, soprattutto nell'utilizzo dei dati personali dei vari utenti registrati. Passatemi la mia pronuncia d'inglese, perdonatemi se dovesse esserci qualche errore. Allora, it owns your data. Quindi, ha il controllo, it, cioè Facebook, ha il controllo dei nostri data, cioè dei nostri, delle nostre informazioni. It knows your friends. Conosce, è a conoscenza dei nostri amici. It has your credit cards, quindi è in possesso, ha l'informazione anche in questo caso della nostra carta di credito e più in generale delle nostre abitudini di acquisto e di pagamento, ma poi ci arriviamo. It hears your conversations, quindi può ascoltare le nostre conversazioni. It follows you everywhere, quindi ci può seguire, può seguirci ad ogni dove, dovunque. And you can't go a day without it. E tu non puoi stare, non puoi andare, stare un giorno senza di lui. I helped create this mess, here's how to fix it. Quindi qui le regole di come cercare in qualche modo di fix it, di risolverle in qualche modo. Ma andiamo con ordine, perché il Time ha dedicato questa, in qualche modo, questa, diciamo, la copertina a questo argomento? Beh, è molto semplice. Facciamo alcuni passi indietro. Facebook, come sapete benissimo, è un'azienda commerciale che fa profitti e guadagna soldi non solo, come molti possono pensare ad a primo acchito, attraverso i banner pubblicitari, cioè quei banner pubblicitari altamente personalizzati che potete trovare appunto sul social network, ma la fetta più grande del guadagno di Facebook è appunto è attraverso la vendita delle nostre informazioni alle aziende e appunto facendosi pagare per far visualizzare queste pubblicità in modo mirato. Cosa significa? In base ai nostri gusti, in base alle nostre ricerche, in base ai nostri like, Facebook vende i nostri dati alle aziende, le quali poi utilizzano le loro pubblicità in modo mirato alle persone di loro interesse, che hanno questi interessi ai loro prodotti, in base ai loro gusti, alle loro preferenze. Quindi molti di voi obietteranno e diranno: ma Facebook mette a disposizione molti strumenti per proteggere la nostra privacy, no? Anzi, è possibile gestire in modo capillare tutto ciò che i nostri amici su Facebook vedono su di noi. Possiamo anche mantenere il nostro profilo completamente privato. È vero questo, ma è altresì vero che questo mantenere il nostro profilo completamente privato è una nostra mera illusione, illusione di privatizzare il nostro profilo agli occhi dei terzi, dei nostri amici, ma Facebook continuerà, indipendentemente dal nostro settaggio, della nostra privacy, del nostro account, continuerà a controllarci sempre e ci conoscerà sempre bene, sapendo tutto di noi. Innanzitutto Facebook registra e memorizza le nostre azioni che si fanno sulle pagine delle aziende. Facciamo un esempio, la pagina su Facebook della Coca-Cola. Un esempio, prendiamo un esempio tra tanti, ecco. Sulla pagina della Coca-Cola possiamo mettere il mi piace e noi mettiamo mi piace a una di queste pagine, ad esempio alla pagina della Coca-Cola. Il nostro nome comparirà poi nelle inserzioni di vendita, ok? Quindi ci saranno altre aziende con queste determinate inserzioni che venderanno la Coca-Cola, nelle quali apparirà il nostro nome, appunto il nostro like, e non solo loro, ma anche i nostri amici sapranno che a noi è piaciuta questa pagina. quando loro gli apparirà il banner, sotto al banner, al banner pubblicitario, ad esempio della Coca-Cola, dirà anche a Luca Mariani piace questa pagina, piace questo prodotto. Vi è mai capitato? A me capita sempre, o meglio, capitava sempre. E quindi tutto quello che la gente fa, sia su Facebook, ma anche fuori da Facebook. Per esempio, siti fuori dalla piattaforma Facebook hanno la possibilità, ormai tutti, di lasciare un mi piace correlato a Facebook. Quindi anche nei siti fuori Facebook lasciate un mi piace, in questo caso rivelerà informazioni direttamente a Facebook. Quindi Facebook praticamente è presente anche fuori Facebook stesso. Ad esempio, anche quando facciamo le registrazioni su siti esterni Facebook tramite il login, tramite la registrazione con il login a Facebook, al nostro account Facebook, è un altro modo per vendere, per fornire informazioni a Facebook. Sembra geniale. Sembra scontato, ma in realtà non lo è così scontato. Molti, molti di noi fino ad ora non ci avevano fatto caso, ma è proprio così. Quindi la raccolta di dati da parte di Facebook sembra abbastanza scontato. Qual è ciò che rende Facebook un qualcosa di veramente complesso, ma altresì geniale? Beh, semplicemente Facebook riesce a fare in modo che le informazioni che gli stesso ha raccolto da noi le riesce a mettere in correlazione e tenere incroci tra gusti e preferenze molto precisi, che effettivamente diventa fondamentale per un annuncio pubblicitario indirizzarla alla persona mirata, la persona che ha quei determinati gusti, quelle determinate preferenze. Quindi è questo che rende i dati di Facebook acquistabili dalle aziende come una miniera d'oro per aziende e altresì per Facebook che le fa vendere queste informazioni a caro prezzo. Quindi, questo perché? Perché Facebook riesce a vendere questi dati con questa e avere queste informazioni così mirate sui suoi utenti? Beh, molto semplicemente perché Facebook effettivamente è in grado di tracciare e controllare le persone anche se non entriamo nel sito di Facebook. Appunto, come abbiamo detto, grazie a quella vastissima rete di sorveglianza sui siti che appunto contengono il codice che fa comparire il tasto mi piace, il famoso tasto mi piace anche fuori dalla piattaforma Facebook. Quindi Facebook riesce a conoscere tutto delle persone, quindi sa dove stiamo andando. Ad esempio, con l'app di Facebook del cellulare abbiamo attiva la geolocalizzazione, quindi grazie al servizio di localizzazione l'app di Facebook sa dove stiamo andando in questo momento. Mi è mai capitato di entrare in un centro commerciale e vi appare la pubblicità di quel centro commerciale o se di lasciare una recensione su quel centro commerciale? Ecco, grazie all'app di localizzazione sia Google, ma soprattutto anche Facebook sa esattamente dove siamo, dove ci troviamo. Sa quali siti visitiamo. Appunto, grazie, come abbiamo detto prima, al pulsante mi piace o di login per accedere con l'account Facebook. Conosce la nostra situazione finanziaria, perché anche se non pubblichiamo la nostra carta di credito, cioè se non pubblichiamo i nostri dati per acquistare direttamente su Facebook, è capace in ogni modo Facebook di memorizzare gli acquisti che facciamo online su piattaforme come Amazon, come eBay. Tutte quelle piattaforme, quei siti di e-commerce che noi utilizziamo giornalmente, quotidianamente, puntualmente per fare i nostri acquisti. Facebook, grazie ai suoi algoritmi e ai suoi cookies, riesce a tenere traccia anche di questi nostri acquisti. Sa Facebook quanto ci mettiamo a scrivere uno stato e quante volte scriviamo per poi ripensarci. Quindi ogni cosa che scriviamo sulla nostra bacheca, sul nostro status, su quello che facciamo, Facebook memorizza e lo tiene in conto. Sa anche le app che utilizziamo, le app che abbiamo installato sul nostro cellulare, quei collegamenti delle app con Facebook, no? Tipo Candy Crush, o tutti quei giochini di Facebook che si connettono e si salvano, scusa, quei giochini esterni a Facebook, ma che si connettono e si salvano grazie al login e all'account di Facebook. Ecco, questo è un esempio. Sa benissimo cosa stiamo utilizzando, le app che stiamo utilizzando, sa il nostro stato d'animo, sa, anche attraverso grandi app che puntualmente e genialmente Facebook ha acquistato, due tra le tante, WhatsApp e Instagram. Grazie a queste app riesce a ottenere ulteriori informazioni accessorie sul nostro conto. Sa altresì, grazie al riconoscimento facciale, le foto che noi appariamo, i luoghi, le foto che noi appariamo. Per Per farla breve, Facebook riesce a tenere traccia di tutti questi nostri dati, ok? Quindi, in uno stato di diritto, in uno stato democratico come il nostro, non si dovrebbero usare le nostre informazioni senza un esplicito consenso anteriore, appunto, un esplicito consenso anteriore alla registrazione, nella fornitura di quei nostre informazioni, e sembrerebbe qualcosa di ovvio. In realtà però Facebook, attraverso una serie di algoritmi, danno agli utenti tutto ciò che loro vogliono in base alle loro preferenze, fanno vedere tutta una serie di banner pubblicitari in base alle nostre modi di agire, i nostri modi di acquistare su vari siti di e-commerce, in base ai nostri like, ai nostri mi piace, alle foto nelle quali appariamo. E attraverso questi algoritmi Facebook ci fa apparire pagine che magari altri nostri amici gli piacciono, quindi ci fa apparire preferenze comuni alle nostre e comuni anche ad altri nostri amici, in modo da incentivarci ancora di più nell'acquistare quei determinati prodotti che appunto ci vengono in risalto con i banner pubblicitari. E Zuckerberg diceva che la finalità di Facebook era quella di connettere ciascuna persona al fine di connettere ciascuna persona nel mondo al fine, e tutto ciò giustificava qualsiasi azione necessaria per l'appunto per permettere questo obiettivo. In realtà poi già a partire dopo il 2012 Facebook sempre di più si è trasformato in un vero e proprio business commerciale economico nella vendita di questi dati. Qual è la ratio della base? Che effettivamente gli utenti hanno il diritto di conoscere il nome delle organizzazioni e delle persone che vengono a conoscenza delle loro informazioni tramite Facebook, cosa che per l'appunto non era avvenuto, o meglio, non è avvenuto nel modo più trasparente possibile. Questo è ciò che ha portato innanzitutto l'anno scorso a Facebook, in particolare Zuckerberg, ad essere richiamato dall'assemblea del Parlamento degli Stati Uniti. Effettivamente ci fu quella famosa audizione, no? Dove si cercava di fare il punto sul punto su questa problematica, ma poi anche altri stati, altri paesi, come appunto nel nostro caso l'Italia, è intervenuta più tardi rispetto agli Stati Uniti, ma comunque in qualche modo è intervenuta. In particolare, appunto, come vi ho anticipato all'inizio di questo podcast, il 7 dicembre del 2018 l'Antitrust, che è l'autorità garante della concorrenza e del mercato, ha chiuso un'istruttoria nei confronti di Facebook e l'ha multata di 10 milioni di euro. Ma perché l'ha multata? Un po' l'ho spiegato nel mio video su YouTube. Qui le parole dell'istruttoria, appunto, di questa authority. Facebook, vi leggo le parole dell'authority, ha indotto ingannevolmente gli utenti consumatori a registrarsi nella piattaforma Facebook non informandoli adeguatamente e immediatamente, in fase di attivazione dell'account, dell'attività di raccolta con intento commerciale dei dati da loro forniti e, più in generale, delle finalità remunerative che sottendono la fornitura del servizio di social network, enfatizzandone la sola gratuità. Quindi qual è il succo del discorso? Che Facebook non ha edotto chiaramente e completamente gli utenti in fase di registrazione alla sua piattaforma sulla vera finalità di utilizzo di questi dati, appunto finalità prettamente economiche e commerciali, ma solamente facendo leva sulla gratuità della piattaforma. La piattaforma è free, è gratuita, è gratis, registratevi per rimanere connessi con tutto il mondo. In realtà, cercando di far passare in secondo piano la vera finalità, la vera fonte di guadagno di Facebook, ma è un discorso che poi effettivamente può oggi essere esteso un po' ai vari altri social network, anche se ad esempio WhatsApp, l'app di messaggistica per antonomasia, e lo stesso Instagram, che sta andando oggi molto di moda, effettivamente sono comunque di proprietà di Facebook, ok? Quindi c'è stato un primo movimento anche da parte dell'autorità italiana, autorità indipendente in questo caso, dalla pubblica amministrazione ordinaria, c'è stato comunque una, l'antitrust italiana si è comunque mossa in questo senso, una volta che ha preso anch'essa atto di ciò che effettivamente Facebook stava portando avanti illecitamente nella vendita dei nostri dati. Ok? Poi ci sono anche altre problematiche che Facebook porta nella nostra società, una tra tante, come parla il Time, l'addiction, ok? Cioè la sorta di dipendenza, ok, digitale, una dipendenza comportamentale che molti di noi purtroppo sono dipendenti. La prima cosa che fanno quando si svegliano al mattino è prendere in mano il cellulare per entrare in Facebook o altri social network. La ultima cosa che si fa la sera è appunto entrare in Facebook o altri social network, così come durante tutto l'arco della giornata. Quindi c'è una sorta di dipendenza comportamentale e Facebook non può che non esserne contento per il discorso dei dati della vendita. E poi c'è anche il problema dei bambini, dei minorenni, bambini che molto spesso preferiscono la stimolazione delle esperienze virtuali rispetto al mondo reale. E tutto ciò causa una serie di distrazioni nel mondo reale, prima tra tutte causa distrazioni in classe, nelle scuole. E questo è un argomento, è una problematica comune. Ovviamente i genitori a casa e i maestri, gli insegnanti nelle scuole dovrebbero in qualche modo cercare di ovviare a questo problema facendo capire al bambino, che ovviamente è la parte più lesa, la parte più indifesa, che effettivamente deve dare più peso al mondo reale che quello del social network, è un mondo virtuale, e quindi evitare una chiusura al mero mondo virtuale. Questa è un'altra problematica. E il Time, in chiusura comunque del suo articolo, ovviamente in inglese, dice che dobbiamo insistere con una soluzione non tanto a valle ma a monte, attraverso un movimento politico per promuovere una tecnologia che sia guidata dall'uomo come un'alternativa a come si sta trasformando oggi questo mondo tecnologico. Quindi una tecnologia più umana, più al servizio dell'uomo e non l'uomo al servizio della tecnologia. So, sembra un po' un gioco di parole, ma effettivamente quello che ci vuole dire, e quello che lo penso anch'io tuttora, è che il fatto, come ho fatto io, di cancellare le amicizie in Facebook, cancellare i nostri dati, numero di cellulare, mail, orientamento religioso, politico, eccetera, eccetera, eccetera, sul social network, può in qualche parte arginare a valle la problematica della vendita dei dati a società terze di Facebook, ma non può arginare e risolvere completamente il problema. Il problema deve essere arginato a monte, quindi ab origine, deve essere in qualche modo, attraverso un movimento politico, ma anche un movimento governativo nei vari paesi dove Facebook opera, avere una serie di legislazione più attenta appunto a queste nuove problematiche della nuova era tecnologica, che e tutte queste nuove problematiche che i social network in qualche modo stanno comportando. Ricordiamoci anche dell'elevato potere sociale e politico che Facebook ha nei confronti dell'opinione pubblica. Si è parlato molto, ad esempio, durante la Brexit, durante altre decisioni politiche in vari stati, un ruolo di primo piano che ha avuto Facebook. Questo è un altro discorso, questo è un'altra, chiamiamolo in qualche modo, problematica su come Facebook possa influenzare anche elezioni politiche o decisioni politiche e governative nei paesi dove esso opera. Quindi, ragazzi, non c'è una soluzione. Si può oggi, in qualche modo, finché non ci sia una legislazione efficiente, finché ci saranno solamente qualche multa, come nel nostro caso, finché comunque a Facebook verrà concesso di operare in questo modo, ci possono essere alcune alternative, alcuni modi per ovviare a questi problemi, ma ci deve essere prima di tutto una consapevolezza nostra, un movimento sociale e politico, in modo tale da prendere atto di questa nuova era, di queste nuove problematiche sociali e effettivamente digitali, e quindi anche la legislazione dovrebbe intervenire per cercare in qualche modo di risolvere, di ovviare e di tutelare maggiormente le informazioni, i dati, le abitudini di vita di ciascun iscritto, di ciascuna persona, di ciascun essere umano, che io penso è una prerogativa fondamentale per ciascuno stato di diritto e che vuole essere in qualche modo democratico. Direi io che per oggi possa bastare così, che questo podcast è stato ampiamente e lungamente trattato. Spero di essere stato quanto più caro, più chiaro, scusatemi, possibile. Se così fosse, vi invito di lasciare un like ai miei video di YouTube, a comunque scaricare, condividere, commentare questo podcast e appunto, se vedo che c'è riscontro, che c'è successo, continuerò molto volentieri, perché comunque mi piace mettermi qui a parlare di vari argomenti d'attualità, continuerò con ulteriori podcast. Io vi do saluto qui, vi saluto qui per l'appunto e ci vediamo eventualmente, e lo spero, al prossimo appuntamento con Luca Mariani Official. Ciao!